9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti a 9 in punto. Forse il gioco delle figurine evocato dal nostro ascoltatore Angelo da Bergamo, che ormai mandiamo in onda tutte le mattine all'inizio e alla fine della trasmissione, potrebbe essere finito. Potrebbe essere finito perché oggi si concludono le consultazioni al Quirinale, il Presidente della Repubblica trarrà le sue conclusioni e a quel punto, insomma, sapremo sostanzialmente chi sarà incaricato di formare un nuovo governo. Naturalmente c'è in campo, come ovvio che sia, il tentativo di Pierluigi Bersani, e però stanno circolando anche altre voci, perché a quanto pare, come vi abbiamo più volte raccontato non solo da questi microfoni ma anche all'interno dei giornali radio, il Presidente della Repubblica, insomma, non sarebbe convinto di questa opzione. Le voci che stanno circolando sono tantissime, tra queste sembra prendere corpo l'ipotesi di un governo istituzionale a guida Piero Grasso, l'ex procuratore antimafia appena eletto Presidente del Senato. Lorenzo Dell'Ai, buongiorno. Buongiorno. Capogruppo alla Camera di Scelta Civica, benvenuto a 9 in punto. La prima cosa che le voglio chiedere però riguarda la riunione di ieri. È vero che Monti era così arrabbiato con voi? Ma guardi, è vero che i giornali e le agenzie hanno dato una caricatura di questa seduta. Non nascondo che il Presidente, giustamente, io l'ho anche molto apprezzato, ci ha richiamato un pochino tutti a un atteggiamento di responsabilità e di serietà. E questo è giusto, perché un leader ogni tanto bisogna anche che un po' si arrabbi con i suoi collaboratori, con chi lo segue, e però sono state date interpretazioni francamente sopra le righe. Cioè non ha detto è disgustoso l'atteggiamento. No, guardi, il Presidente ha affermato l'esigenza che in un momento così delicato non si accreditino all'esterno né divisioni assurde né men che meno interpretazioni al ribasso della nostra posizione. Io l'ho molto apprezzato questo richiamo, così come i colleghi, e penso che noi dobbiamo veramente recepire questo invito e, incominciando da oggi, dare all'esterno l'idea che siamo una forza politica che è molto responsabile e che capisce che prima ancora che ogni altra valutazione interna quello che conta è essere utile al Paese e al Capo dello Stato, che sta cercando con grande impegno di dare un governo a questo nostro Paese. E però qualche valutazione interna forse è anche necessaria dell'AI, poi verremo naturalmente alle questioni di governo. Sempre, cito sempre retroscena di giornali, no? Parlano di una divisione all'interno tra un fronte che potremmo definire più laico, liberale, quello che fa riferimento ad Italia Futura, e appunto la parte più cattolica. Naturalmente lei ci dirà adesso che stiamo esagerando, come al solito. Le dico due cose invece più un pochino più motivate, insomma, e sono proprio due importanti. La prima è che è assolutamente sbagliato coinvolgere il Presidente Monti in una discussione interna ai gruppi parlamentari. Ho visto qualche interpretazione in questo senso, e questa sì, intendo assolutamente smentirla, perché noi riteniamo che il Presidente Monti sia una grande risorsa non solo per il nostro movimento ma per il Paese. Se il Capo dello Stato ha voluto, come i giornali scrivono, bloccare o disincentivare la sua disponibilità a presiedere il Senato, perché questo avrebbe compromesso il venir meno di un presidio al governo molto importante, di una persona che dà garanzie anche sul piano europeo e internazionale, beh, questo vuol dire che appunto è riconosciuto questo ruolo del Presidente Monti. Quindi prima di tutto bisogna che nessuno di noi, ma nessun anche commentatore, lo coinvolga in discussioni che pure ci sono all'interno, direi, di tutti i gruppi parlamentari. parlamentari, compreso il nostro. Secondo punto. Vabbè, mi scusi, dell'AI, piccola nota a margine: i commentatori fanno quello che vogliono, insomma. Ecco, No, ma voglio dire, i commentatori fanno ovviamente quello che vogliono, però io mi sono visto messo tra virgolette delle dichiarazioni che mai mi sono sognato di fare, quindi ecco, vorrei che i commentatori distinguessero da un lato il racconto di ciò che accade e poi le loro opinioni, liberissime per carità di Dio, lungi da me l'idea di voler condizionare la libertà di chi commenta, però quando mi trovo anche personalmente, diciamo, citato, coinvolto, addirittura tra virgolette, per frasi che neanche mai pensato, non dico detto, allora un po' di caricatura della realtà viene fuori, ma io faccio il mio mestiere, i giornalisti ovviamente devono fare il loro, e questo mio era solo un piccolo commento a margine, diciamo, di queste giornate un pochino convulse. Invece un secondo punto, non voglio sottrarmi alla domanda, certamente una certa discussione nel gruppo parlamentare c'è stata, come in altri gruppi, però ecco, viva Dio, Porta Pia è un po' lontana nella storia di questo paese, immaginare che la dinamica di un gruppo parlamentare si giochi fra laici e cattolici, mi sembra riportare l'orologio del nostro paese un pochino indietro. No, diciamo che il nostro partito, il nostro movimento si è composto attraverso una convergenza di realtà organizzate che c'erano prima, Italia Futuro è una di queste, e queste realtà hanno deciso di mettersi insieme in un progetto politico e, come ovvio, all'inizio di questo percorso ci sono sempre dei problemi, però noi li abbiamo superati, li superiamo e siamo soprattutto convinti che la gente si attende da noi ben altro che non questa coltivazione di problemi interni. Ecco, ce li risolviamo e per il resto siamo tutti, dal primo all'ultimo dei nostri deputati, impegnati a dare una mano al nostro paese. Adesso veniamo al tema delle consultazioni. Io intanto saluto Massimo Bitonci, che è capogruppo al Senato della Lega Nord. Buongiorno. Buongiorno, saluto a tutti. E buongiorno anche a Claudio Cerasa del Foglio. Buongiorno Claudio, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Bitonci, che cosa gli andrete a dire a Napolitano tra un'ora sostanzialmente? Beh, come già anticipato poi anche dal nostro segretario federale Roberto Maroni, ma anche da Berlusconi ieri, noi dopo una settimana scorsa in cui abbiamo cercato di far capire al Partito Democratico che non ha vinto le elezioni e che le forze in campo sono divise di un terzo, un terzo, un terzo, perché questi sono i valori in campo tra il centrodestra, il centrosinistra e Grillo. Noi settimana scorsa abbiamo cercato di far capire che forse sarebbe stato opportuno che almeno una delle due rami del Parlamento fosse presieduto da un componente del centrodestra. Questo messaggio non è passato, quindi c'è stata questa, chiamiamola così, occupazione del centrosinistra di tutti e due i rami del Parlamento, pur non avendone i numeri, però nonostante questo, insomma, la posizione nostra, che è ben nota, quella della Lega, è che noi vogliamo comunque che ci sia un governo stabile in un momento di crisi economica così difficile, dove bisogna affrontare temi dell'occupazione, i temi dell'economia, i temi della famiglia, i temi delle imprese, il tema del patto di stabilità degli enti locali, dei pagamenti della pubblica amministrazione. Ci sono tutta una serie di obiettivi che sono, guardi, io ho guardato tutti quanti i programmi, ci sono almeno una decina di obiettivi che sono presenti in tutti i programmi, dal centrodestra al centrosinistra. Basterebbe cercare di portare avanti questi 10 obiettivi, che non sono né di destra né di sinistra né di centro, sono obiettivi per il bene dei cittadini e di tutto quanto, di tutte quante le nostre imprese. Un incarico a grasso, perché questa è la voce che circola in queste ore, Bitonci, come lo valutereste? Votereste la fiducia ad un governo grasso? Ripeto, questo è prematuro, perché al di là della personalità che presiede un governo, bisogna, come dicevo prima, vedere qual è il programma. Perché sì, però dico, può essere un nome, mi scusi Bitonci, però può essere un nome di sintesi quello di Grasso, secondo lei? Io ritengo comunque Grasso una personalità nel panorama nuovo politico italiano, perché non avendo fatto politica in precedenza, non sciolgo ovviamente io questa riserva, però io... Proprio mentre ci rispondeva è caduto. Dell'AI, Grasso potrebbe avere il profilo per presiedere questo governo di larghe intese? Ma guardi, è impossibile, credo, per me, immagino anche per altri colleghi, rispondere in questi termini a questa domanda. Quello che posso dire è che noi ieri abbiamo detto due cose al Capo dello Stato. La prima è che riteniamo, visti gli equilibri emersi dalle elezioni, anche a seguito di una legge elettorale assurda che il vecchio Parlamento ha rifiutato di cambiare, visti questi equilibri e viste le posizioni, a noi sembra che in prima battuta il Paese dovrebbe avere un governo che superi i confini delle coalizioni che si sono presentate intorno ad alcuni obiettivi, come si diceva prima, che siano di interesse generale, anche se non ci nascondiamo la difficoltà a praticare questa soluzione, che sarebbe in realtà forse la più naturale in qualsiasi altro Paese europeo che si trovasse con gli equilibri politici che abbiamo noi. Ma da noi è chiaro che abbiamo alle spalle un lungo periodo di guerra di posizione fra i poli, e quindi mi rendo conto della difficoltà di questa soluzione, che sarebbe la più naturale, praticata anche in altri paesi europei in situazioni simili. La seconda cosa che abbiamo detto però al Capo dello Stato è che se i partiti vanno al colle ponendo veti e pregiudiziali, il Capo dello Stato ha i margini molto stretti. Dunque, noi abbiamo detto che non abbiamo né veti né pregiudiziali, e valuteremo anche in alternativa a questa prima opzione altre soluzioni che il Capo dello Stato avesse l'opportunità di formulare finito il giro delle consultazioni, perché se i partiti non fanno così, ovviamente i margini del Capo dello Stato si riducono moltissimo. Claudio Cerasa, come la vedi tu? Ma intanto mi sembra significativo che Bidonci abbia casualmente riattaccato proprio sulla domanda. Adesso no, lo recuperiamo, anzi forse l'abbiamo già recuperato. No, scherzi a parte, la Lega adesso in questi giorni secondo me gioca la partita più importante paradossalmente, sembra assurdo dirlo ma è veramente così, e mi spiego anche perché. Negli ultimi giorni, anzi negli ultimi 10 giorni, il Partito Democratico ha sguinzagliato una troica o anche più persone per cercare di sondare la Lega di Maroni. Ricordiamo che la Lega di Maroni già nel 99 diede l'appoggio esterno al governo D'Alema, quindi non sarebbe esattamente una novità assoluta che la Lega faccia partire un governo di centrosinistra. Adesso, in questi ultimi giorni, prima che venissero eletti i presidenti di Camera e del Senato, Bersani ha incaricato una serie di persone, tra cui anche Daniele Marantelli, tra cui anche Paolo De Michiel, Tiana, Civati e altri, per capire se è vero o no che la Lega sarebbe disposta a sostenere un governo di centrosinistra. La risposta è stata sì. La risposta è stata sì, ma con un piccolo, particolare, che la Lega, come Maroni ripete da giorni, vuole un governo, non vuole andare a votare per tante ragioni, perché non ha convenienza, perché il governo Maroni in Lombardia deve partire, perché la macchina si deve un po' organizzare. Poi la Lega ovviamente al Senato ha i numeri, nel senso al PD più Monti e Sel mancano 12 senatori a Palazzo Madama per avere la fiducia, la Lega ne ha 17, quindi i numeri tornerebbero. Qual è, che cosa ha risposto la Lega in privato al Partito Democratico? Ha detto: noi saremmo disposti a sostenere un governo di centrosinistra se Bersani si dovesse fare da parte. Più o meno la stessa cosa detta in maniera più rozza dal Movimento 5 Stelle, però la Lega sarebbe disponibile a sostenere un altro governo. In ultima istanza, se Bersani dovesse insistere, intestardirsi, non è neanche escluso, come Calderoli ha detto 3 giorni fa a Repubblica, che ci sia una pregiudiziale su Bersani. Però intanto questa è la verità, quindi se davvero la carta Grasso, come sembra, che sembra essere una carta spendibile a questo punto, dovesse essere confermata, e Napolitano dovesse decidere che Grasso è la persona che riesce a mettere insieme i numeri per governare, io credo che la Lega potrebbe appoggiare questo governo. Sentiamo Bitonci che cosa ci risponde, perché adesso l'abbiamo recuperato e insomma ha sentito quello che ha detto Cerasa. Ecco, sì, grazie, non è stato un blackout voluto. No. Lo immaginavamo. In questi giorni abbiamo qualche problema con i telefoni, gli ascoltatori ci sono testimoni dopo quello che è successo ieri, abbiamo perso e recuperato persone continuamente. Bitonci, no, allora. Dunque, ho partecipato anch'io poi di là alla Camera, ma anche qui al Senato, a tutta una serie di incontri che abbiamo fatto anche con il Partito Democratico, però noi siamo sempre stati abbastanza chiari. Non ne facciamo mai una questione di persone, anche perché, come è noto, noi non abbiamo chiesto nulla al Partito Democratico, non abbiamo chiesto presidenze o posti, anche settimana scorsa, per quanto riguardava poi la trattativa sui due rami del Parlamento, sulle presidenze dei due rami del Parlamento. A noi interessa che ci sia un governo stabile e che soprattutto ci sia un programma che noi condividiamo. Quindi non è neanche un problema quello del nome di Bersani di per sé, anche se devo dire che l'irrigidimento che c'è stato nelle posizioni di Bersani nei confronti del centrodestra, questa non è una parola offensiva, però voglio che gli ascoltatori un po' la capiscano, questa cocciutaggine che io ho visto nel voler proporre la propria persona in un momento così difficile, certamente non ha aiutato la trattativa, devo dire la verità. Quindi Bitonci, scusi. Se fosse stata presentata già un'altra personalità, ecco, un po' fuori dagli schemi, come probabilmente lo è Grasso, perché insomma è entrato in politica l'altro giorno e insomma è sempre stato un po' fuori dagli schemi, l'ha anche dimostrato nelle prime battute insomma della sua presidenza. Io ero all'ufficio di presidenza l'altra sera, insomma ha fatto alcune proposte, a un certo punto gli abbiamo anche detto no, guardi che questo probabilmente non è il posto per parlare di alcune cose, è meglio sfondare, quindi si vede che per lui è un po' tutta una novità, e questo è anche positivo perché ovviamente per la gente si aspetta anche un cambio, un rinnovamento. Certo che bisogna parlare di programmi. Sì, da quel che ho capito, mi scusi. Non è che il programma, adesso non voglio andare su temi che magari, però non è che tutto il programma può essere i matrimoni gay o a noi, cioè sono cose sì importanti, ma penso che ci sono anche dei gay che non hanno il posto di lavoro, che hanno perso, che sono in cassa integrazione. Io penso che sia più importante il tema del lavoro, il tema del fisco, il tema delle imprese. Il tema del patto di stabilità agli enti locali, il premio del pagamento, cioè questi sono risposta secca Bitonci. Quindi non c'è una pregiudiziale nemmeno nei confronti di Bersani, questo no, nei confronti di Bersani ora sì, mi piace dirlo, però ora sì, perché dopo una lunga trattativa si è capito che insomma c'è una posizione molto molto rigida, che a questo punto diventa quasi personale, direi. Chiarissimo. Prima di salutare Lorenzo Dell'Ai, che poi se ne deve andare, è una cosa che ho promesso ai nostri ascoltatori, perché abbiamo trattato nella giornata di lunedì e martedì il tema di quello che sta avvenendo a Cipro e mi sono lamentato e continuo a lamentarmi del fatto che la politica su questo tema, che secondo me è un tema centrale perché riguarda il nostro rapporto con l'Europa, come l'Europa viene gestita, come affrontiamo quest'anno complicato in vista delle elezioni tedesche, quindi è una questione centrale assolutamente questa di Cipro, mi sono lamentato che francamente ho sentito molte poche voci dalla nostra politica, se non banalità semidemagogiche. Allora Dell'Ai, ci dà in breve, prima di salutarci, una vostra posizione su questa vicenda? Ma guardi, noi ci siamo costituiti proprio intorno alla figura del presidente Monti, quindi abbiamo nel nostro DNA questa preoccupazione fortissima di non vedere l'Italia che si sgancia dall'Europa o che sceglie soluzioni che appunto sono demagogiche, ma perché illudono la gente che ci si possa chiudere in un fortino prescindendo da quello che accade e dai vincoli, oltre che dalle opportunità dell'Europa. Quello che sta accadendo in giro per l'Europa, al nord, con questa volontà di fare da soli, o in altri paesi che hanno grandi difficoltà, deve essere un po' la bussola che ci orienta anche nelle decisioni del governo. Noi abbiamo un'unica pregiudiziale, ed è quella contro qualsiasi soluzione che illuda i cittadini che si può fare a meno dell'Europa e si può fare a meno della politica della serietà e del rigore. Io penso che questo sia un grande valore di responsabilità che dobbiamo dire, e io concordo con quello che lei diceva, purtroppo questo nostro essere concentrati sulle dinamiche, anche comprensibilmente naturalmente, dei rapporti, degli equilibri dentro il Parlamento, ci ha forse portati a non parlare in questi giorni delle grandi questioni che interessano appunto il Paese e il suo rapporto con l'Europa. Un po' concentrati sul nostro ombelico. 9 in punto. Io non sono euroscettico, sono sempre stato un euroentusiasta, però se devo essere governato da un euroscemo, forse cambio anche atteggiamento. Eccolo qua, il nostro nuovo tormentone di un altro ascoltatore che ci ha chiamato nei giorni scorsi quando appunto parlavamo di Cipro, l'euroscemo. Niente male tutto sommato. Walter ci chiama da Firenze, buongiorno, mi raccomando, brevi oggi, Walter, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per il servizio che offrite. Io dicevo questo, il governo potrebbe formarsi intorno a una proposta di programma e una persona di garanzia. Poi punti, diminuzione del debito pubblico attraverso dismissione di asset nazionali, forte diminuzione del debito pubblico, riforma degli stipendi di tutti gli alto burocrati, portandoli a quelli della media europea calcolata senza l'Italia, e liberalizzazione del mercato e dell'impresa, con ritorno dei soldi che avanzano nelle possibilità di chi ha maggior propensione alla spesa. Famiglie... Walter, si offre come figura di garanzia lei? Sto scherzando. Lei scherza, ma io potrei anche offrirmi, ma non solo io, tutti gli imprenditori che hanno sempre lavorato e che sono massacrati non dalle nostre istituzioni. Ma guardi, questa proposta di programma l'aveva fatta un partito, io non mi nascondo dietro un dito, che era fare per fermare il declino. Poi è andato giù con le vicende note di Oscar Giannino, però sono proposte che se si candidasse, ipotizzo, una persona simile Renzi, con queste proposte qui potrebbe fare un governo che dura un anno, fa queste norme qui e quindi porta fiato elettoralmente ai partiti, non dà fiato a Grillo o a tutti i movimenti di protesta. Grazie Walter, il punto l'abbiamo colto. Giacomo dalla provincia di Sondrio, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma mi volevo ricollegare all'ascoltatore di prima. Io quando mi sono trovato a dover votare avevo tre scelte: Grillo, non votare o fare per fermare il declino. Ho votato fare e è andata come è andata da quello che c'è. Però quello che volevo dire era questo: ho sentito un suo ospite dire che un terzo non hanno capito che allora forse era meglio darci a noi una camera. Cioè, io non riesco più a capire se questa gente non ha capito che è finita. Cioè, tutta questa cosa si ripercuote costantemente anche dall'alto verso il basso. Quindi dal governo, ovunque, negli ospedali, arriva ovunque la politica in questo modo. È finita questa cosa qua, non è più possibile, non capiscono. Capisco benissimo il ragionamento, tant'è vero che è esattamente quello che ci dice Angelo nella telefonata che abbiamo scelto come sigla iniziale di tutte le nostre giornate, che dice: voi tre smettete di giocare con le figurine, insomma è il momento di pensare al paese, un paese che sta morendo. Bitonci ce l'ha con lei, Giacomo, eh? No, beh sì, però bisogna anche capire quello che, cioè l'intervento che ho fatto io non era un intervento per dire tocca uno, tocca l'altro, bisogna dividersi le posizioni, però è anche vero che non bisogna essere demagogici, per governare ci vogliono le persone e non si può pensare che le persone scendano dalla luna, le persone che vengono scelte fanno parte di gruppi e coalizioni, in realtà non ha vinto le elezioni neanche Grillo, come non l'ha vinto Bassani, come non l'ha vinto il centrodestra di pochi voti alle Camere. Quindi bisogna anche prendere atto della situazione che c'è di emergenza. Io capisco benissimo, perché io sono ho fatto politica partendo dal basso e quindi ho fatto prima il vice sindaco di un comune, poi il sindaco, poi sono arrivato in Parlamento, quindi ho fatto molti anni di amministrazione e di gavetta, quindi io non sono certamente un esempio di casta o chi è stato paracadutato in politica, però in realtà quando dopo tu entri nelle istituzioni devi fare delle scelte e qualcuno deve pur fare il Presidente della Camera e del Senato, quindi non possiamo essere demagoghi e dire può farlo qualsiasi persona. La proposta era quella di trovare una soluzione perché ci fosse un presidente di una componente uno dell'altra che potesse far partire un governo di unità nazionale con dei programmi. Quindi adesso non buttiamoci tutti sul grillismo, perché guardi, io lo dico, è una cosa che fa arrabbiare molto i ragazzi del Movimento 5 Stelle, no? Che è questo. Intanto in politica, quando si amministra un comune o una comunità, bisogna avere della competenza, perché non si può pensare di andarsi a sedere magari a fare il sindaco o l'amministratore senza sapere neanche cos'è una delibera, come si fa a gestire il personale, come si fa, com'è la macchina pubblica. Quindi la competenza deve essere il primo sistema per la selezione della classe politica. E poi un altro ragionamento è quello che non ci si può comportare una volta che si accetta di entrare in Parlamento e proporsi come forza politica, come forza extraparlamentare. Nel momento in cui tu decidi di entrare nell'agone della politica, devi accettare anche alcune regole, e tra queste regole ci sono anche le regole del peso che tu hai. Se tu hai la forza, hai il 51%, allora puoi governare; se non ce l'hai, devi trovare un accordo con gli altri. Di tutto il resto mi sembra un po' queste delle sparate che fanno, che non rendono il senso di quello che deve succedere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, è quello di trovare una soluzione per il governo del paese. Claudio Cerasa, vaticina un esito di questa giornata. Ma dunque, intanto mi sembra che abbiamo assistito in diretta alla certificazione plastica di un trappolone clamoroso organizzato dalla Lega per Bersani. È una cosa veramente clamorosa, nel senso che, io ripeto, forse non è chiaro, 3 giorni fa Roberto Calderoli, Repubblica, ha detto nessuna pregiudiziale nei confronti di Bersani. Quindi il centrosinistra in questi giorni è abbastanza illuso che, cavolo, forse ci sono i numeri per poter fare un governo. Invece adesso in diretta ha detto Bitonci le seguenti parole: l'unica pregiudiziale praticamente è per Bersani. Significa che quando oggi la Lega andrà con il piede al Quirinale, dirà a Napolitano che noi siamo disponibili a far partire un governo di centrosinistra purché non ci sia Bersani. Quindi, come dire, mi sembra che più passano le ore e più si riducono le probabilità di Bersani di fare il Presidente del Consiglio. Però per poter fare un vaticinio o una previsione su quello che accadrà nelle prossime ore, bisogna capire una cosa. Cioè, al centro di tutto c'è questo seguente problema: quanto contano le ambizioni personali di Bersani? Perché Bersani, nella sua testa, così consigliato anche dalle persone più vicine al segretario, ha questo piano: o andare a cercare di fare un governo e farselo anche bocciare in aula dai 5 Stelle per poi andare in campagna elettorale e dire: guardate questi disgraziati irresponsabili che hanno bocciato le mie 8 proposte, che hanno bocciato questo governo di giovani, competenti e bravi, con l'idea appunto di essere ancora lui il candidato premier e di farsi votare sulla base non di un programma ma della foto del governo, che sarebbe la nuova foto di Vasto, Se invece le ambizioni personali di Bersani dovessero scemare, e se Bersani dovesse anche essere coerente con quello che ha detto in questi mesi, ricordate, lui ha sempre detto: non metterò mai il mio nome sul simbolo perché viene prima il partito e poi viene la mia persona. Ecco, se Bersani dovesse capire veramente che l'unico ostacolo in questo momento alla formazione di un governo è il suo nome, le cose cambierebbero. Io darei molto più forte l'ipotesi, se fosse un bookmaker, di un governo di scopo, un governo istituzionale. Qualcosa potrebbe nascere. Per chiudere, Bitonci, così poi la saluto perché so che mi hanno detto al 9.45 ci deve lasciare, quindi abbiamo ancora 3 minuti. Per chiudere, abbiamo detto governo di larghe intese, ma un governo in realtà di centrosinistra, a questo punto senza Bersani, e però con un programma preciso, vi convincerebbe? Allora, si potrebbe fare questo? Guardi, ho analizzato gli 8 punti di Bersani, tutti gli 8 punti di Bersani, a parte quello relativo al riconoscimento delle coppie, però interessa a una minima porzione, è lo stesso identico programma è quello che c'è in parallelo nel centrodestra. Sono 2 programmi veramente simili, per quello io dicevo prima, non è la persona che conta, ovviamente deve essere una figura di garanzia, ma l'importante è che si facciano subito quei punti che vengono condivisi da tutte le coalizioni, perché ci sono punti del programma che sono inseriti nel programma di Grillo, della Lega, del PDL, di dei Monti, del PD, cioè dei punti che sono importantissimi e fondamentali. Quando parliamo della riduzione del numero dei parlamentari, per me possiamo farla anche domani. Quando parliamo della riduzione dei costi della politica, possiamo farla insieme anche domani. Facendo così dobbiamo far capire agli italiani che c'è ancora una politica sana e che non è rappresentata solamente da chi fa le sparate, ma anche da chi lavora ogni giorno a testa bassa nelle pubbliche amministrazioni, nei comuni, nelle province, nei comuni, e anche qui in Parlamento c'è gente che lavora e che vuole portare avanti quelli che sono i programmi e gli obiettivi di rilancio del nostro paese. Questa è veramente l'ultimissima e poi la salutiamo, Bitonci. Secondo me quella che non avete proprio mandato giù come Lega è l'elezione della Boldrini alla Camera, diciamoci la verità, che proprio insomma i rapporti non sono mai stati serenissimi, diciamo, nel suo ruolo precedente di portavoce dell'organismo. Però questa è una cosa comunque secondaria, nel senso, ormai queste due le due figure sono state scelte, io auguro a loro un buon lavoro e, ecco, e spero che di non sentire ancora dichiarazioni da parte del Presidente della Camera su temi delicatissimi quale l'immigrazione e anche altri che penso che debbano essere trattati dai due rami del Parlamento e non certamente dal Presidente della Camera dei Deputati. Grazie Bitonci, buona giornata e buone consultazioni. Grazie. A questo punto. Naturalmente una pausa, la viabilità e poi qualche altro ascoltatore. 9 in punto. Enzo ci chiama da Napoli, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prego. Allora, niente, io sono un grillino, diciamo così, pentito, perché anche sul blog ho parlato con Grillo, cioè ho comunicato con loro queste cose qua. Beh, dite, nel senso che abbiamo, tra l'altro sono anche un piccolo imprenditore, abbiamo dato il voto a Grillo per farlo governare, non per farlo stare fuori dal governo come sta facendo, ci sta creando ancora tanti problemi. Perché noi non possiamo aspettare, noi abbiamo esposto queste cose, che non si poteva aspettare, volevamo dare un voto per governare, non per, cioè è impossibile, non sappiamo più come far capire al leader che comunque si deve parlare, si deve entrare in Parlamento, si deve governare, anche dare la fiducia comunque a Bersani, non era un patto a vita, su quei punti essenziali, poi si andava a rivotare, cioè, niente, ci abbiamo comunque questa delusione. Io dico una cosa, che qua si dovesse riandare le elezioni, Grillo può anche non ricandidarsi più, perché noi artigiani siamo delusi, non si può aspettare, abbiamo bisogno di commesse, di lavoro, tutte queste balzelle, adesso che parla che alle Camere, cominciano a litigare per questo, per quell'altro, cioè sono cose che noi non interessiamo, ma è possibile che poi non si riesce più a far capire a questi politici che non ce la facciamo, non ne possiamo più. Se si dovesse riandare alle elezioni, mi piacerebbe, guardi, che scomparissero, cioè Berlusconi incandidabile, Bersani incandidabile, tutti questi, molti nuovi, gente che comunque fa, e andare a votare addirittura con altri simboli, cioè che non esista più il PD, il PDL, tutti questi ci hanno rotto, non gliela facciamo più. Ma è possibile che non si riesce a capire una cosa così semplice? Grazie. Poi si tagliano gli stipendi. Grazie Enzo, abbiamo capito, il punto è chiaro. Giancarlo da Prato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego. La preoccupazione che ho in questo momento, per cui sono intervenuto in trasmissione, è quella relativa a quello che sta succedendo a livello di dominio europeo. In questo momento è molto chiaro che tutto il problema di tutto quello che in parte sta succedendo è di natura finanziaria, dove addirittura si arriva da qualche parte, qui la Germania dopo due guerre ha capito che doveva portare una situazione economica vista la compattezza interna che loro hanno su qualunque tipo di ragionamento, tenendo conto che poi c'è anche il problema politico che hanno da qui a settembre. Quindi la domanda che io cerco di fare a me stesso, al di là di tutto un aspetto che interno nostro, di cui dopo tanto tempo vorrei rivolgermi a quelli che hanno detto le competenze, perché se le competenze, io che ho 60 anni, mi sono trovato dal 68 in poi, avendo gente sempre gestito le imprese, sono quelle che ci siamo trovati da questi signori di competenza che sono di origine bancaria, beh, allora io preferirei, una volta si diceva, oggi non sono nessuno, domani sono presidente della Repubblica. E quindi Giancarlo, in questo caso la preoccupazione è quella di andare a finire su Cipro, la preoccupazione è quella del mondo bancario, la preoccupazione è quella del sistema imprese, la preoccupazione è quella di liberare dei capitali dalle banche per poter far sì che quello che abbiamo pagato venga ritorto. Questo è il punto. Grazie Giancarlo, grazie Giancarlo. È la preoccupazione tra l'altro di molti imprenditori, non solo sua, e credo di molti italiani a questo punto. Gianmaria ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la telefonata, ma io volevo dire solo questo: bene o male un governicchio lo faranno, perché nel paese del trasformismo, in fondo è dall'Ottocento che in Italia esiste il trasformismo, adesso si ripresenta Monti, Dell'Ai, oltretutto penalizzati dal voto, ma riusciranno a fare un governo? Il problema è che questo governo non rappresenterà mai gli italiani, perché gli italiani il trasformismo lo puniscono elettoralmente, quindi trovo che sia una situazione paradossale. Un'altra volta la politica si allontanerà dalla gente e Grillo aumenterà i voti, almeno questo è il mio pensiero. Io sono un piccolo imprenditore, adesso sono sulla Milano-Torino, ho due dipendenti, sto andando a Torino per un lavoro, sa che ci sono ancora i lavori in autostrada, è 15 anni che la faccio e 15 anni che non hanno ancora chiuso i lavori per l'alta velocità, i pagamenti alle imprese sono bloccati, cioè questo è un paese in emergenza. E continuano a chiacchierare mettendosi d'accordo sempre bene o male fra le stesse forze politiche. L'unica per di più penalizza Monti, Dell'Ai, che poi Dell'Ai è stato il paladino del trasformismo. A Trento ha cambiato tutto l'arco costituzionale salvo il centrodestra. Grazie Gianmaria. Sentiamo anche Diego da Roma. Buongiorno Diego. Sì, buongiorno. No, a me dà fastidio che alcuni analisti, ecco, approfittino di una trasmissione come la sua per dire cose che poi creano confusione. Cioè, secondo me ogni leader di partito parla e quello che dice pubblicamente poi sarà la reale anche intenzione che ha quando è andato al Presidente della Repubblica. Quindi inventarsi che la Lega Nord è disponibile a un governo di centro-sinistra quando la Lega per la prima volta va alle consultazioni insieme al PDL. Le intenzioni del PD sono chiare, loro puntano all'arresto di Silvio Berlusconi, quindi vogliono eliminare il personaggio politico Silvio Berlusconi, e le intenzioni di Grillo sono chiarissime, non faranno mai un governo con il Partito Democratico. E di conseguenza l'unica analisi corretta, per corretta non perché lo dico io, ma corretta perché lo dicono i leader di partito pubblicamente quando vanno di fronte alle telecamere o quando escono dalle consultazioni, è il fatto che si vada al voto immediatamente. Penso che il Presidente della Repubblica in questo momento ha due problemi. Uno, il fatto che lui per un mese non può sciogliere camere perché deve arrivare il prossimo per sciogliere, perché lui è il semestre bianco. Sì. E quindi? Il secondo problema che c'è è che sicuramente non si può andare al voto con questa legge elettorale. E dunque? Ma lì si riapre il problema. Si riapre il problema perché di nuovo tanto né PD né PDL si metteranno d'accordo. A meno che non vinca la posizione di D'Alema, che è un proporzionalista, e sul proporzionale con le preferenze forse si può trovare un accordo, ecco, così totale tra tutti, perché sul maggioritario tanto il PD dirà maggioritario a doppio grazie turno. Grazie Diego, ho capito, insomma, stiamo facendo un po' di politicismi in questo lato, insomma. Claudio Cerasa, abbiamo veramente 30 secondi, alla fine un governo si farà, insomma, no? Non credo che torneremo al voto. Ma io credo che si tornerà al voto presto, ma non prestissimo, nel senso che a giugno, che è comunque una finestra ancora possibile se Bersani si intestardisce, soltanto Bersani vuole andarci, tutti gli altri, compreso Renzi che vuole andare al voto presto, voglio andare al voto un pochettino più in là. Quindi, come dire, allo stato dell'arte, se Bersani non si intestardisce e se tutti quanti, diciamo, gli anti-bersaniani si mettono d'accordo nel fare un governo, credo che almeno fino a ottobre ci sarà un governo o di scopo o con Monti ancora o con Grasso, qualcosa secondo me si troverà. Grazie anche a Claudio Cerasa del Foglio per essere stato con noi, buona giornata, vedremo se il vaticinio, se così possiamo chiamarlo, si avvererà, insomma, tanto ci risentiremo nelle prossime settimane, perché sulla politica necessariamente dovremo tornare, resteremo sempre anche sulle cose concrete come ovvio. Grazie a Franco Piantanini in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Rosa, Eleonora e Sabrina al centralino, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani. Dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 101 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi.